Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Non vengono i capelli bianchi a caso facendo il capo del governo. Parola di Matteo Renzi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Abbiamo visto anche Obama da quando è diventato presidente dell'America, si è imbiancato completamente. Renzi, insomma, se ne intravede qualcuno, ma lui l'ha detto questa sera 8:30 per dire che, insomma, ci sono spesso delle brutte notizie che arrivano a chi ha una così grande responsabilità come appunto il capo di un governo, tra le quali anche la morte di un cooperante, notizia che è arrivata ieri, no? Dagli Stati Uniti, Giovanni Loporto, che è stato ucciso in un raid americano in Afghanistan, sul quale ci sono moltissime polemiche. Di questo sicuramente parleremo stasera. Parleremo anche proprio delle polemiche sull'utilizzo dei droni come arma antiterrorismo usata dagli Stati Uniti. Comincia a vacillare un po' questa sicurezza che siano l'arma migliore. Parleremo di questo, ci sarà naturalmente alla fine il meteo, torneremo ancora sull'argomento dell'immigrazione. Insomma, ce ne sono tante questa sera di cose da raccontare. E come sempre, voi lo sapete, anche il venerdì sera, come tutte le sere con Effetto Notte, potete intervenire attraverso due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, oppure, se preferite gli sms, c'è il numero 349-238-6666. 349-238-6666. Parleremo anche della festa della liberazione, domani è il 70° anniversario, il 25 aprile. Quali sono per esempio i vostri sentimenti rispetto al 25 aprile? Potete sempre questo anche scriverlo con le vostre opinioni, con le vostre posizioni sull'argomento, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte e agli sms. Vi ho appena ricordato il numero 349-238-6666. Potrebbe essere questo uno degli argomenti. Siamo alla vigilia del 25 aprile, poi ce ne sono anche altri. Per esempio un ministro Gentiloni che oggi ha riferito in aula alla Camera della morte di Loporto, non c'era quasi nessuno. E sapete perché? Bisogna capirli i parlamentari. Era venerdì, e che volete tenerli venerdì con un po' di sole lì attaccati ai loro banchi? Benissimo, voi intanto fate le vostre riflessioni su tutte queste cose. Io come sempre all'inizio vi racconto in sintesi la giornata. Blitz in Italia contro Al-Qaeda, operazione antiterrorismo in Sardegna, dove la cellula aveva le sue basi. Dalle intercettazioni gli indizi di un attentato contro la Santa Sede, 18 gli arresti. L'ostaggio italiano ucciso in un raid americano, secondo il New York Times Obama sapeva ma non lo disse a Renzi, ma il premier italiano dice la certezza l'abbiamo avuta tutti mercoledì. Politica sempre, Renzi avverte o l'Italicum passa o cade il governo. Grecia, Eurogruppo teso, pressioni su Atene, Draghi avverte il tempo sta finendo. Il crack di Borsalino, arrestato a Lugano in Svizzera l'imprenditore Marco Marenco, il suo sarebbe uno dei crack più grandi della storia italiana dopo Parmalat. Bologna, la ministra Giannini contestata, lascia la festa dell'unità. 25 aprile Mattarella, alla vigilia del 70° anniversario, dice un giorno di libertà per tutti, ma il presidente invita comunque a non abbassare la guardia. Calcio, nei sorteggi per la Champions, la Juve incontrerà il Real Madrid, scongiurato il derby italiano tra Napoli e Fiorentina in Europa League. Partiamo quindi dal blitz antiterrorismo che c'è stato oggi in Italia contro una base di Al-Qaeda in Sardegna. Sono stati 18 gli arresti effettuati. Nel mirino ci sarebbe stato anche il Vaticano. Sentiamo prima la cronaca e poi le reazioni. Non c'è la prova ma il forte sospetto, dicono gli inquirenti. Fanno riferimento a un kamikaze presente in Italia e all'ipotesi che fin dal marzo 2010 si progettasse un attentato in Vaticano. Il procuratore capo di Cagliari, Mauro Mura. Ci sono delle conversazioni dalle quali emerge chiaramente che è in programmazione un qualche attentato, addirittura potrebbe anche la città del Vaticano. Le conversazioni sono quelle tra i componenti della cellula fondamentalista affiliata ad Al-Qaeda, sgominata dall'indagine della Procura di Cagliari coordinata dal Servizio Operativo Antiterrorismo. 18 le ordinanze di custodia cautelare, di cui 9 eseguite, gli altri sono ricercati. Dei 9 arrestati, 3 sono stati bloccati ad Olbia, 2 a Civitanova Marche e gli altri a Bergamo, Roma, Sora, provincia di Frosinone e Foggia. Tra loro ci sarebbero anche gli autori della strage del 2009 nel mercato di Peshawar in Pakistan, in cui vennero uccise più di 100 persone, e 2 membri della rete di fiancheggiatori che proteggeva Osama Bin Laden. Con i fondi raccolti in Italia la rete finanziava 4 associazioni terroristiche, organizzava attentati in Pakistan e introduceva illegalmente in Italia cittadini pakistani e afghani. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lo Stato italiano è uno Stato forte e noi siamo un grande paese in grado di contrastare anche queste reti criminali. Commenta così il ministro dell'Interno l'operazione contro la rete di Al-Qaeda in Italia. Si congratula Angelino Alfano con la polizia, il nostro antiterrorismo e la magistratura, anche se poi ribadisce non esiste un paese a rischio zero. Nessun paese può dirsi realmente sicuro, ma in Italia si sta dimostrando che noi siamo davvero in grado, ancora oggi lo dimostriamo, di contrastare queste reti. Quanto all'ipotesi di un progetto di un attentato in Vaticano, il portavoce della Santa Sede, padre Federico Lombardi, si mostra tranquillo. Da quel poco che si dice, afferma, sembra un'ipotesi del 2010 senza seguito, quindi la cosa non è oggi rilevante e non è motivo di particolari preoccupazioni. Gli fa eco il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, che assicura il Papa è tranquillo. Siamo tutti esposti e abbiamo tutti paura in un certo senso, ma il Papa è molto tranquillo su questo punto. Vedete anche come incontra le persone e si muove con molta libertà. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Vedo la notizia di adesso, è uno scontro tra bus e tram a Roma, diversi feriti, due gravi. Incidente tra un autobus e un tram della linea 8 sulla circonvallazione Gianicolense a Roma, almeno due feriti gravi. Sul posto c'è la polizia, i vigili urbani e il 118. Ritorniamo sulle altre notizie, sul cooperante italiano ucciso in un raid americano e le conseguenti polemiche. Il ministro Gentiloni, come vi ho detto, ministro degli esteri, oggi ha riferito alla Camera. Va detto che però, essendo venerdì, l'aula era semivuota. In mattinata l'informativa alla Camera, nel pomeriggio la rivelazione del New York Times, la morte di Giovanni Lo Porto, il cooperante italiano ucciso durante un'operazione antiterrorismo USA tra Afghanistan e Pakistan, si tinge di giallo. Soprattutto riguarda la tempistica delle informazioni. Per il New York Times la scorsa settimana i funzionari dell'intelligence fecero rapporto ad Obama, ma il presidente americano non disse nulla al premier Renzi. La telefonata arriva invece a Palazzo Chigi mercoledì sera, come rivela anche il ministro degli esteri Paolo Gentiloni nell'aula vuota della Camera. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha informato il presidente del Consiglio Matteo Renzi nella tarda serata del 22 aprile scorso. Tale informazione è stata fornita al nostro governo e all'opinione pubblica americana appena finalizzate le necessarie verifiche condotte da parte statunitense. Per il New York Times l'intelligence aveva saputo che Warren Weinstein, il cooperante americano ucciso insieme a Lo Porto, era morto subito dopo il raid nel gennaio scorso, ma non era chiaro come. Ci volle del tempo per mettere insieme il puzzle. Già in mattinata le opposizioni avevano attaccato Gentiloni di non aver detto nulla di nuovo e di non aver avuto informazioni sufficienti dalla Casa Bianca. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Parliamo di immigrazione. All'indomani del vertice straordinario di Bruxelles, le organizzazioni non governative rimangono molto critiche sulle conclusioni. Bocciatura netta anche dalla Santa Sede. Colpire barconi è un atto di guerra ed è contro il diritto internazionale. La Santa Sede tuona contro l'ipotesi di affondare le carrette del mare prima della partenza. A parlare il cardinale Antonio Maria Vegliò, presidente del Pontificio Consiglio per i Migranti. Ma al Vaticano in generale non piace l'esito del vertice di Bruxelles, considerato deludente e insoddisfacente. Così anche l'osservatore romano e la CEI. Coro di critiche anche dalle ONG. Salvare le vite non è ancora una priorità di Bruxelles per Medici Senza Frontiere. Così Raffaella Milano di Save the Children. Anche noi siamo delusi. Non c'è un'attivazione di una corresponsabilità per quanto riguarda l'accoglienza. Intanto Commissione e Consiglio UE sono al lavoro per attuare le nuove misure, a partire dal rafforzamento di Triton, il cui budget mensile verrà triplicato, mentre sarà estesa la sua area di intervento, così che le navi potranno andare oltre le 30 miglia dalle coste dei paesi UE. La Gran Bretagna intanto fa sapere di aver messo a disposizione, al di fuori della missione Triton, la nave porta elicotteri della Royal Navy Bulwark, che sarà entro una settimana nel sud del Mediterraneo. Tutto questo mentre proseguono gli sbarchi. 84 profughi sono arrivati nel pomeriggio a Catania, dove la procura ha convalidato il fermo per i due presunti scafisti del barcone naufragato lo scorso sabato con almeno 700 migranti. Sono un tunisino e un siriano, ora nel carcere di Catania. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E poi la Grecia, per la quale l'intesa è sempre lontana. L'accordo tra Grecia e istituzioni europee infatti ancora non c'è. Bisognerà attendere la riunione dei ministri delle finanze europee dell'11 maggio per sbloccare la situazione. Il tempo però stringe, visto che Atene ha circa 1 miliardo di rimborsi che deve dare al Fondo Monetario Internazionale in agenda per la prima metà di maggio e i soldi in cassa sono pochi. Ne è una prova che il primo ministro Tsipras ha deciso di requisire le liquidità delle municipalizzate e degli enti locali per far fronte alle esigenze correnti, ma intanto la credibilità del ministro dell'economia greca Varoufakis è messa a dura prova, perché secondo una ricostruzione dell'agenzia Bloomberg il professore sarebbe stato definito da alcuni suoi colleghi come un perditempo, un giocatore d'azzardo e, peggio, un dilettante. Per la politica, Renzi avverte a 8:30, l'ha detto questa sera, se l'Italicum non passa cade il governo, e ha detto che ci stanno pensando se mettere la fiducia o meno. Sono le proteste che ci sono state oggi alla Festa dell'Unità a Bologna, dove c'era anche la ministra Giannini che doveva parlare. Sono insegnanti che protestano contro la riforma della scuola, che è sfociata anche lì alla Festa dell'Unità. E, tra l'altro, oggi è stato il primo sciopero dell'anno della scuola. Siamo alla cronaca: nessun danno per la forte scossa di magnitudo 4,2 avvertita alle 17 in Romagna. La località più vicina all'epicentro sono state Faenza, in provincia di Ravenna, e Castrocaro Terme e Terra del Sole vicino Forlì. Un parroco di Vercelli, ancora un caso di pedofilia, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata. Avrebbe adescato ragazzini sul web e li sottoponeva a massaggi particolari, simulando competenze terapeutiche e sportive. Il sacerdote è stato subito sospeso dalla curia. Secondo l'accusa, si fingeva un impiegato in cassa integrazione. Tra le vittime accertate, un 14enne italiano e 2 17enni stranieri. E poi si torna a parlare dell'uccisione del piccolo Loris in Sicilia. Dal carcere di Agrigento, Veronica Panarello ha chiesto di essere ascoltata di nuovo dalla procura di Ragusa per ribadire la sua innocenza. La donna è accusata di aver ucciso il figlio Loris di 8 anni il 29 novembre scorso e di averne occultato il cadavere in un canalone di Santa Croce Camerina, in provincia di Ragusa. L'interrogatorio è cominciato alle 11 di stamattina nell'istituto penitenziario dove si trova Veronica ed è stato condotto dal sostituto procuratore Marco Rota. La donna non cambia la sua posizione. Non ho ucciso mio figlio, trovate il vero colpevole, ha detto durante il colloquio. Secondo quanto la donna avrebbe dichiarato alla rivista Giallo, la sua versione dei fatti del 29 novembre, finora incongruente con i filmati delle telecamere, sarebbe cambiata. Veronica avrebbe detto di aver fatto una strada diversa dal solito per accompagnare il figlio a scuola. La donna ha anche invitato il marito a chiedere la separazione, se davvero lui la ritenesse responsabile dell'uccisione del figlio. Valeria Grandi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo invece del triste epilogo di un grande marchio. Fuga finita in Svizzera, Lugano, per Mario Marenco, l'imprenditore astigiano al centro del crack di Borsalino. Era appunto fuggito in Svizzera. Marenco, 59 anni, al centro di questo crack. Storica azienda di cappelli. Lo riferisce l'edizione online del Corriere del Ticino. Il suo sarebbe uno dei crack più grandi della storia italiana dopo Parmalat. Pensate, ben 3,5 miliardi di euro. E domani in Italia tante manifestazioni per i 70 anni dalla Festa della Liberazione. Di questi valori ha parlato così oggi il Capo dello Stato. Dobbiamo saper custodire e rivitalizzare le istituzioni della nostra democrazia, perché in esse vi è il lascito di chi, con coraggio e con sacrificio, ha combattuto la battaglia per aprire a noi un futuro migliore. E dobbiamo fare altrettanto con i nostri figli e i nostri nipoti. Dobbiamo passar loro il testimone, indicando nella libertà la fonte dei diritti, ma al tempo stesso di responsabilità e di doveri. Dobbiamo applicare la Costituzione, che è la viva eredità del 25 aprile. 25 aprile per l'appunto, tra poco leggerò anche i vostri messaggi su questa data così importante. Per chiudere però c'è il calcio, con i sorteggi delle coppe, la Juve affronterà il Real Madrid e in Europa League è stato evitato il derby Napoli-Fiorentina. C'è Clotilde a proposito della Festa dell'Unità di Bologna, dove è stata contestata la ministra Giannini, che dice: sono una di sinistra che ha nostalgia del 68 ma sa riconoscere l'onestà intellettuale, grazie, mi saluta, dice però non la chiami Festa dell'Unità, io mi sento offesa se ripenso a quello che erano, adesso la devono chiamare la festa del partito di Renzi. E poi invece un altro messaggio dice: l'ipocrisia del 25 aprile da un'oppressione ad un'altra, cioè, dice questo ascoltatore, siamo Zerbini degli Stati Uniti. E poi un altro messaggio, quello di Manuel: il 25 aprile ormai è una festa dimenticata, dobbiamo guardare avanti anziché continuare a guardarci alle spalle, giusto che regni l'indifferenza. Manuel, insomma, senza storia lo si dice sempre, ma è la verità, non c'è presente e non c'è neanche futuro. 349-238-6666 per i vostri messaggi oppure le vostre riflessioni tranquillamente sulla pagina Facebook di Effetto Note. Aggiorniamo chi viaggia. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Perfetta Notte. Le notizie in 60 minuti. Vogliamo sentire un pochino di Renzi a 8:30 sulla 7? Sì, è la sfida culturale, quella che più mi appassiona, quella che più credo sia la sfida più forte per i prossimi anni. Anche perché, questa è la mia tesi, può darsi che sbaglio, io credo che nel tempo della globalizzazione il ruolo culturale dell'Italia come faro di civiltà nel mondo possa crescere. Ecco, fermiamoci qui, direi che con questa frase possiamo per il momento lasciare Renzi. Invece vado ai vostri messaggi velocemente sulla pagina Facebook di Effetto Notte, poi c'è anche il 349-238-6666. A proposito dell'aula vuota oggi, quando il ministro Gentiloni ha riferito alla Camera sull'uccisione in un raid americano del cooperante Giovanni Lo Porto, Alberto dice: chi se ne frega se muore un cooperante, uno che ha dato la vita per il prossimo, un esempio di cristiano vero, ma non a parole, anche nei fatti purtroppo siamo assuefatti alle brutte notizie. Anna scrive: è un'altra vergognosa pagina del Parlamento italiano, che indecenza. Domenico: è colpa del governo, si sa da sempre che per il lunedì e il venerdì è deserto dei tartari a Montecitorio, evidentemente visto il testo fotocopia dei quotidiani si volevano evitare contestazioni, visto che da 2 anni di Lo Porto la Farnesina non ne aveva tracce. Tra poco ne parleremo, ma intanto vi riassumo, se avete acceso la radio in questo momento anziché accenderla puntualmente alle 21 con inizio Effetto Notte, vi ricordo le notizie principali del giorno. Renzi avverte: se non passa l'Italicum cade il governo. Intanto la ministra dell'istruzione Giannini è stata contestata a Bologna dai professori che protestavano contro la riforma della scuola. L'Eurogruppo attacca Varoufakis, ministro dell'economia greco, e lo chiamano dilettante e perditempo, e Draghi avverte: il tempo sta finendo per la Grecia. E poi il blitz in Italia contro Al-Qaeda, volevano attaccare forse anche il Vaticano, secondo alcune intercettazioni. Il governo dice: per il terrorismo è allerta massima. La morte di Lo Porto, Gentiloni, vi dicevo, un'aula semivuota. Renzi avvisato il 22 dagli Stati Uniti, ma la stampa americana dice che Obama sapeva da prima. Il Vaticano contro l'Unione Europea, bombardare i barconi è guerra, dice. E poi il 25 aprile, Presidente della Repubblica Mattarella commenta: è un giorno di libertà per tutti, ma non bisogna abbassare la guardia. E ancora, per la Champions League pesca nel sorteggio, la Juve pesca il Real, sarà Barcellona-Bayern, in Europa League i viola col Siviglia e Napoli col il Dinamo Pro. Ora invece soffermiamoci su questo blitz che c'è stato in Italia contro Al-Qaeda, e la cosa piuttosto, diciamo, sorprendente è che questa cellula di Al-Qaeda aveva base in Sardegna. Le richieste di arresto sono state 18, pare che siano per il momento 10 gli arresti eseguiti, e l'operazione però coinvolge 6 regioni. Le intercettazioni rivelano anche presenze di 2 kamikaze che forse avevano nel mirino anche il Vaticano, però oggi il portavoce del Vaticano Lombardi ha detto: ma in realtà era una cosa che forse era relativa all'anno 2010, noi per il momento siamo tranquilli, insomma. E Alfano dice: il nostro sistema funziona. Se funziona ne parliamo con Arturo Varvelli, che saluto. Buonasera Varvelli. Buonasera. Responsabile dell'osservatorio sul terrorismo dell'ISPI, che è l'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Renzi, fra l'altro, mi pare proprio 8:30 poco fa, ha detto: l'allarme terrorismo è altissimo. Vediamo, sentiamo questo passaggio. Abbiamo il livello di allerta che da qualche mese abbiamo sottolineato come un livello di allerta massimo, perché, come ovvio che sia, l'Italia, come tutti i paesi occidentali, deve stare molto attenta a ciò che accade dentro i propri confini. Il fatto che queste operazioni si svolgano e vadano a arrestare delle persone mi sembra un fatto positivo. Ecco Varvelli, così ha detto Renzi, quindi forse è la prima volta che si parla di allerta massima in Italia per il terrorismo, fra l'altro. Sì, altre volte si è accennato, diciamo, a degli allerta, ma non a questi livelli, mi sembra. In casi particolari, magari dopo attentati naturalmente condotti in altri paesi. E questo è vero che in Italia non è mai stato compiuto un attentato di su grande scala o con grande visibilità, perlomeno mediatica, come gli ultimi che sono stati condotti in Europa. Questo naturalmente va a onore delle nostre forze dell'ordine, dei nostri servizi di sicurezza. Certamente vi sono stati tentativi che in passato alcuni sono stati molto evidenti, dal Duomo di Cremona in poi, dagli anni 90, fine anni 90 in poi. Certamente, però sono anche condizioni molto diverse. Probabilmente abbiamo una comunità islamica, è una comunità islamica radicale o radicalizzata, che è molto inferiore a quella di altri paesi. E un po', diciamo, anche queste ultime vicende con cellule che agiscono certamente non in grandi centri urbani, ma infatti, in provincia, non sono nuove. Mi scusi se la interrompo, però la Sardegna a me sembra, cioè, la cosa impensabile proprio, no? Uno pensa alle città di provincia, in Lombardia, nel Lazio, però in Sardegna questa è certamente un luogo piuttosto decentralizzato, ma è successo altre volte che ci fossero in Calabria, in Basilicata, nelle Puglie, in aree certamente non urbanizzate. A volte... Beh, quella è un'isola, tra l'altro, no? No, certamente questo dimostra anche che al di là del fatto di essere localizzati, sono capaci di agire in maniera quasi delocalizzata, cioè non hanno bisogno di stare in un centro nevralgico. Poi abbiamo visto che in realtà però ci sono delle diramazioni, ad esempio c'è un imam di Zengonia in provincia di Bergamo, sì, che era già particolarmente sotto osservazione, lo sapevamo da parte delle forze di sicurezza, e quindi era un po' inventilato di essere un radicale islamico. Naturalmente non si sapevano queste connessioni, e poi naturalmente ci dovranno essere anche dei processi. Se sono scattati degli arresti, immagino che ci siano delle prove piuttosto importanti a loro carico. Quindi il sistema funziona, come ha detto Alfano, come diceva lei? Certamente funziona, naturalmente, fin quando non c'è una prova contraria, speriamo naturalmente che non ci sia. Io penso che comunque l'Italia, sia dal punto di vista legislativo con gli ultimi decreti, sia dal punto di vista delle forze di sicurezza, dell'intelligence, sia messa piuttosto bene. Bisogna anche ricordare che c'è forse una tradizione che deriva dalla lotta alla mafia e dalla lotta alle mafie varie e all'anticorruzione, che permette ad esempio agli nostri inquirenti ad esempio di avere registrazioni telefoniche, di usare le registrazioni telefoniche in maniera preventiva. Rispetto ad altri paesi in Europa questo è un bel vantaggio, con i pro e i contro che conosciamo bene sulla possibilità di usare l'intercettazione. Però sappiamo che sicuramente in questi casi, poi probabilmente si parla di allerta massima anche perché ci sono importantissimi eventi in Italia, l'Expo, il Giubileo, no? Sì, certamente, ma questi eventi non è che abbiano attirato particolarmente l'attenzione in altri casi. Può essere un'occasione, ma può essere anche un'occasione al contrario, cioè naturalmente l'allerta è massima in questi casi, e quindi è anche molto più difficile portare degli attentati. Abbiamo visto che in realtà gli attentatori agiscono in quasi inaspettatamente, con mezzi sempre meno sofisticati, come abbiamo visto negli attentati di Charlie Hebdo e poi a Bruxelles o precedentemente. Quindi non c'è necessità che ci sia in realtà qualcosa di così catalizzante. Grazie Arturo Varvelli, intanto. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Vogliamo sentire Crozza, ho visto che c'aveva un vecchio foglio dell'Unità lunedì in mano. Si vota la nuova legge elettorale alla Camera, via libera in commissione Italicum, lunedì in aula alla Camera. E se passa l'Italicum, Renzi potrà nominare in Parlamento solo chi vuole lui. Diciamo che la democrazia, non dico che scompaia, però prende una bella botta. L'Italico nel mirino, insomma, al di là dei terroristi. Adesso invece parliamo con Massimo Fini. Ciao Massimo. Ciao. Giornalista di lunghissimo corso, editorialista del Fatto Quotidiano, è stato nella sua carriera giornalistica in tanti teatri di guerra e non, insomma ha girato il mondo, un uomo di mondo, conosce benissimo tante realtà. Il suo ultimo libro è la sua autobiografia, che si intitola Una vita, un libro per tutti o per nessuno, pubblicato da Marsilia, dove racconta di tanti episodi della sua vita, che è anche storia d'Italia, e poi personaggi incontrati, dalla lettera a Gianni Agnelli che il Corriere decide di non pubblicare, alle domande che spaventarono Berlusconi. Invece adesso le domande, Massimo, te le vorrei fare io. A proposito dell'emergenza immigrazione del Consiglio europeo che c'è stato ieri, le conclusioni che ne hanno tratto, Salvini che parlava giorni fa di blocchi navali, il decalogo europeo che almeno fino a ieri, fino all'altro ieri, conteneva anche la possibilità di affondare i barconi. Che idea ti sei fatto di tutto questo che succede, di quello che succede, della Libia che è considerata al centro di questi problemi? Beh, innanzitutto bisognerebbe prendere Sarkozy, Obama e anche Berlusconi che si è accodato, che hanno, senza, violando il diritto internazionale, senza copertura dell'ONU, abbattuto Gheddafi. Chissà perché Gheddafi, e da lì il problema è diventato esponenziale. Io li manderei al Tribunale Internazionale dell'AIA e se possibile li fucilerei, perché sono all'origine di una buona parte di questi problemi, ma non solo loro. C'è un'altra cosa, noi vediamo che vengono verso di noi neri del Centrafrica, Ghana, Costa d'Avorio, dove non c'è nessuna guerra. Come mai vengono verso di noi? Perché c'è la fame, ma la fame in Africa fino al 1970 circa non c'era, l'Africa era alimentarmente autosufficiente al 98%. Poi l'ingresso del nostro modello ha fatto sì che queste economie che si chiamano di sussistenza, cioè autopulsione e autoconsumo, siano state completamente tassate, e quindi la fame. E quindi quello che vediamo adesso, le migrazioni che vediamo adesso, come io ho scritto anni fa, già allora, ma insomma un pallido fantasma di quelle che vedremo in seguito. Cioè siamo come paesi potentissimi, eccetera, circondati da un mare di miseria, e questo mare di miseria prima o poi ci sommergerà, qualsiasi sia la soluzione che vogliamo prendere. Vogliamo sentire anche Renzi, tra le varie cose, cosa ha detto in sintesi di quello che è il suo pensiero delle conclusioni del Consiglio europeo di ieri. Passo in avanti nel fatto che questo non è un problema solo dell'Italia o di Malta, che il tema del Mediterraneo riguarda tutti. Poi naturalmente ciascuno alla propria opinione pubblica risponde con proclami: noi non faremo niente di più che mettere le navi. Però è già qualcosa, abbiamo ottenuto qualcosa. Nei prossimi due mesi la Commissione dovrà con i propri documenti decidere come riorganizzare e riallocare le persone che vengono salvate dal mare. E per la prima volta si dice chiaramente che quei nostri fratelli e quelle nostre sorelle che muoiono in mare non muoiono per caso, ma muoiono perché schiavi di un racket che per me è lo schiavismo dei tempi moderni. L'idea che finalmente la comunità internazionale eviti di guardare dall'altra parte mi sembra un primo passo, però la strada è ancora lunga. Un risultato significativo, ma c'è ancora molto da lavorare. Un risultato significativo, quindi il problema, al di là degli errori fatti, Massimo Fini, è non sono più... solo errori, sono orrori anche. Orrori, non... certamente. Senti, ma il fatto che sia un po' più condiviso da ieri sembra anche dall'Unione Europea, dagli altri paesi, anche se per esempio Cameron, primo ministro britannico, ha detto: noi possiamo dare i mezzi per affrontare questa emergenza, ma non vogliamo un solo profugo da noi. Poi bisognerà vedere se effettivamente va. Ma in realtà, diciamo, il dramma dei profughi dovrebbe essere diviso fra le varie nazioni europee, ma non siamo riusciti a metterci d'accordo neanche su questo. Ma ripeto, il problema è molto più grande di quello di come si presenta, e cioè queste migrazioni, lo vedrete nei prossimi anni, continueranno a aumentare. Se noi ormai, cioè l'Africa è una specie di l'Africa nera, diciamo, non parlo di quelli che fuggono dalle guerre, dalla Siria, dall'Iraq, è un cimitero, e questo cimitero si contagerà per forza di cose, e non vedo soluzioni. Anche l'intervento militare da cui, che è stato sollecitato da qualcuno, ma se tu intervieni in Libia, lo stesso governo, diciamo fantoccio, ma comunque quello di Tobruk, riconosciuto dalla comunità internazionale, ha detto: beh, se intervenite sul nostro territorio noi vi faremo la guerra. Ora, e questo non farà altro che compattare tutte le varie formazioni combattenti e consegnare il paese all'ISIS, perché l'ISIS è indubbiamente il più determinato, il più capace. Quindi non vedo via di uscita, francamente. Mi ha chiesto l'altro giorno anche mio figlio, dice: va bene, ok, papà, tu fai una diagnosi delle cose, ma poi che facciamo? E io sul che facciamo non so rispondervi. Invece io ti voglio fare una domanda, siccome arrivano tanti messaggi sul 25 aprile, che è domani 70° anniversario della liberazione, si divide tra i messaggi al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Note tra chi dice la totale indifferenza per me, oppure Sergio che dice la cosa che capita di sabato devo pagare agli operai un giorno in più, mentre per esempio c'è Domenico che scrive: ho 45 anni, sono di Roma del Testaccio, i racconti di mio nonno e dei suoi amici relativi alla battaglia di Porta San Paolo hanno reso vive le parole del libro di storia. Dimmi un pensiero brevissimo sul 25 aprile. Beh, il 25 aprile purtroppo è un equivoco, nel senso che per il coraggio di poche decine di migliaia, anche meno, di donne e di uomini che hanno fatto la guerra, alla lotta partigiana, l'Italia ha fatto finta di aver vinto una guerra che aveva persa, e a questo ha provocato tutta una serie di guasti, tra cui poi il fenomeno, mi accennavate prima, del terrorismo rosso e tutto quanto. In realtà sono cose che noi non dovremmo festeggiare, come non dovremmo festeggiare, mi pare, l'8 settembre, che è la giornata della vergogna, dove noi voltiamo la spalla a un alleato con cui non dovevamo allearci, ma se si lotta per la vita e per la morte, una cosa di questo genere è solo vergognosa. Chiarissimo. Massimo Fini, se volete continuare con il suo pensiero, sicuramente fuori dalle righe, sicuramente originale, la sua autobiografia è Una vita. Ciao Massimo. Ciao, arrivederci a voi. Bene, possiamo prenderci un po' di ricreazione adesso, voi continuate con i vostri messaggi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte, tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberta Giordano con voi, vado a rivedere i vostri messaggi che arrivano al 349-238-6666 per quanto riguarda gli sms, oppure alla pagina Facebook di Effetto Notte, molti anche sul 25 aprile, domani il 70°, con chi appunto dice semplicemente un giorno come un altro. Stefano scrive: penso che sia necessario cambiare pagina, troppi di noi sono ancora lì a discutere di fascismo, di partigiani, di piazzare Loreto eccetera, senza rendersi conto che è passato del tempo, che se da un lato è giusto tenere sempre la memoria della storia, dall'altro è imprescindibile andare avanti. Insomma, i vostri diversi pareri su una data che è arrivata appunto ai 70 anni e che comunque è una tappa fondamentale della nostra storia. Vi ricordo quali sono le altre notizie più importanti. Il blitz in Italia contro Al-Qaeda, operazione antiterrorismo in Sardegna, dove la cellula aveva le sue basi, dalle intercettazioni gli indizi di un attentato contro la Santa Sede, 18 gli arresti. L'ostaggio italiano ucciso in un raid americano, ne parleremo tra pochissimo. Poi per la politica Renzi che avverte: o l'Italicum passa o cade il governo. Grecia, un eurogruppo teso, pressioni su Atene, Draghi avverte intanto il tempo sta finendo. Il crack di Borsalino, arrestato a Lugano in Svizzera l'imprenditore Marco Marenco, il suo sarebbe uno dei crack più grandi della storia italiana dopo Parmalat. A Bologna la ministra Giannini dell'istruzione contestata dai prof che oggi hanno scioperato e lascia la festa dell'unità. 25 aprile Mattarella alla vigilia del 70° anniversario dice un giorno di libertà per tutti. E per il calcio, nei sorteggi per la Champions la Juve incontrerà il Real Madrid, scongiurato invece il derby italiano tra Napoli e Fiorentina in Europa League. Dicevo quindi, sapete che ieri è arrivata la notizia comunicata direttamente dal presidente americano Barack Obama della morte di un cooperante italiano, Giovanni Loporto, che era da tempo ostaggio in Afghanistan e è rimasto ucciso in un raid in bombardamenti americani insieme a un cooperante americano. Bombardamenti che vengono effettuati con i droni, questi aerei intelligenti che dovrebbero essere senza pilota, telecomandati, che usano gli americani per bombardare postazioni ritenute basi terroristiche. Obama si è scusato con il governo italiano, con i familiari delle vittime, ha assicurato che saranno risarcite, ma come prevedibile sono divampate le polemiche sulla comunicazione ritenuta tardiva della morte di Loporto. Adesso si dice che Renzi è stato informato il 22 aprile e ancora insisteva nel dire che dopo ci sono voluti diverso tempo, insomma, per accertare anche l'identità del morto e dei morti. E poi le polemiche sull'utilizzo dei droni. Sentiamo un passaggio di Gentiloni, del ministro degli esteri, oggi vi dicevo ha riferito alla Camera in un'aula praticamente vuota, essendo venerdì. Il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha informato il presidente del Consiglio Matteo Renzi nella tarda serata del 22 aprile scorso che purtroppo il cooperante americano Warren Weinstein, professore di diritto ed economia dello sviluppo, rapito in Pakistan il 13 agosto del 2011, e il nostro connazionale Giovanni Lo Porto avevano perso la vita a seguito di un bombardamento effettuato a metà gennaio da velivoli americani a pilotaggio remoto, i cosiddetti droni, in un'area appunto a ridosso del confine tra Pakistan e Afghanistan. Tale informazione è stata fornita al nostro governo e all'opinione pubblica americana appena finalizzate le necessarie verifiche condotte da parte statunitense. Questo Gentiloni. Buonasera Francesco Tosato. Buonasera. Analista del CESI, Centro Studi Internazionali. Francesco Tosato, quindi su questa polemica dei droni, vedo che anche il Washington Post e anche il New York Times hanno cominciato il dibattito e stanno facendo polemiche sull'uso di questi mezzi che sono stati un'arma strategica dell'amministrazione Obama per combattere il terrorismo. Lo stesso Obama ha detto forse bisogna un po' rivedere il sistema, però leggevo prima proprio una dichiarazione di pochi istanti fa, ha detto l'intelligenza americana è la migliore del mondo, la più capace, ma si può fare meglio. Ma assolutamente i droni hanno nella strategia americana un ruolo fondamentale, anche perché permettono di limitare la presenza dei cosiddetti boots on the ground e quindi di rischiare meno vite di soldati americani fondamentalmente. Questo perché i droni appunto godono di una notevole persistenza nelle aree da sorvegliare, molto più elevata, parliamo di 20, 24 ore, anche 36, dipende dai modelli, e sostanzialmente consentono quindi un'autonomia estremamente superiore rispetto a quella dei velivoli pilotati e se per caso precipitano per motivi tecnici piuttosto che per fuoco nemico non mettono a rischio la vita di piloti o personale statunitense. E questo è chiaro, ma per quanto riguarda i civili, per esempio, ci sono da anni contestazioni e condanne da parte delle associazioni per i diritti umani che appunto accusano l'amministrazione Obama di aver provocato addirittura la morte di centinaia di civili con i droni. Questo diciamo non è di per sé collegato al sistema d'arma quanto al tipo di guerra che purtroppo si combatte, ed è una guerra al terrorismo che è fondamentalmente una guerra comunque ibrida in cui i bersagli purtroppo sono in contesti urbani abitati da civili e in cui sostanzialmente sono stati fatti degli errori come quello di gravissimo di ieri e che purtroppo sono dovuti al fatto che spesso non si riesce a discernere con sufficiente precisione quello che è il bersaglio dal contesto circostante per via delle situazioni che si vengono a creare sul terreno. Da questo punto di vista, nel corso degli anni la strategia di utilizzo dei droni è sempre stata soggetta a ulteriori affinamenti da parte americana per cercare di limitare il numero delle vittime, ma purtroppo, come il caso di ieri ci ha dimostrato, non è possibile arrivare ad un livello di perdite zero. Purtroppo la guerra ipertecnologica, la guerra pulita non esiste, gli errori ci sono e sostanzialmente laddove comunque c'è anche un decisore umano, c'è una catena di comando, controllo di questi velivoli, le decisioni alla fine possono essere sbagliate, come è stato in effetti nel caso del povero nostro cooperante Lo Porto, che fondamentalmente si è trovato in una situazione in cui non doveva essere, nel senso che gli Stati Uniti ritenevano di star svolgendo un attacco su un compound, su un obiettivo terroristico per colpire un target terroristico e non sapevano che all'interno invece erano detenuti degli ostaggi. Quindi l'operazione è stata vissuta come un'operazione di target killing e non sarebbe mai stata fatta se l'intelligence avesse avuto l'informazione che lì dentro c'erano un ostaggio americano e un ostaggio italiano. Anche se insomma, è possibile la guerra chirurgica, l'abbiamo capito, la guerra in ogni modo è guerra. Grazie Francesco Tosato. Grazie, buona serata. A lei, arrivederci. Viabilità. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E rieccovole in pochi secondi con Renzi che dice se non passa l'Italicum cade il governo e la ministra Giannini contestata alla festa dell'unità a Bologna se ne va e salta il dibattito. L'Eurogruppo attacca il ministro dell'economia Varoufakis e il ministro greco dicendo un dilettante è un perditempo. Intanto il numero uno della Banca Centrale Europea Draghi dice il tempo per la Grecia sta finendo. Poi il blitz contro Al-Qaeda che c'è stato oggi in Italia, volevano attaccare il Vaticano probabilmente dalle intercettazioni, kamikaze pronto a farsi esplodere, il governo dice c'è l'allerta massima sul terrorismo. La morte del cooperante Lo Porto, Gentiloni, ministro degli esteri, oggi ha riferito nell'aula della Camera, un'aula semivuota visto che venerdì, e Renzi dice sono stato avvisato il 22, mentre la stampa americana anche riprende il dibattito e la polemica sull'uso dei droni di cui abbiamo appena parlato. 25 aprile Mattarella ricorda che è un giorno di libertà per tutti, e per la Champions la Juve pesca il Real Madrid, sarà invece è stato evitato il derby tra Fiorentina e Napoli in Europa League. Europa 24 notte. Parliamo di europrogettazione, un mestiere creato dall'esigenza di accedere ai fondi pubblici europei seguendone i complessi meccanismi. Ce ne parla Daniela Abruzzo. Per fare questo lavoro devi prendere il bando in mano, leggerlo e dire ok, adesso inizio a scrivere. Da dove parto? Che cosa mi serve? Ecco, è lì il vero momento in cui poi ti confronti con questo lavoro. Fare il progettista significa saper fare le domande giuste per arrivare alla giusta sintesi. Per Barbara Thieri e Davide Marseille, rispettivamente responsabile progetti europei dell'Istituto Luigi Sturzo di Roma e direttore dell'ufficio tecnico della società Golden Group di Bologna, sono queste le definizioni più appropriate di un mestiere pratico e creativo come l'europrogettista. Quel professionista che si occupa di scrivere un progetto europeo per ottenere finanziamenti, grazie a un'idea innovativa in un determinato settore. Ma quali e quanti sono i mestieri dell'europrogettazione? Un settore, quello dei programmi europei, che in ogni Stato dell'Unione si espande ogni anno di più, sebbene il suo business rimanga almeno al momento alquanto ristretto. Anna Chiara Meschi, ad esempio, è agente commerciale della Golden Group di Bologna, società di consulenza sulla finanza agevolata. Io propongo loro i servizi, gli racconto come noi lavoriamo, poi ci sono nel nostro ufficio dei tecnici, nel nostro ufficio tecnico, che sono avvocati, sono ingegneri e figure professionali specializzate che si occupano di capire quello che serve nella progettazione del bando. A me capitano due tipi di situazioni diverse: o incontro imprenditori che non hanno mai profittato di nessun contributo, quindi mi ritrovo anche a spiegargli che possono recuperare una parte dei soldi che loro spendono normalmente per mandare avanti la loro azienda, altri che magari hanno fatto qualche normativa, quindi masticano già qualcosa di questa materia. Che percorso di studi bisogna intraprendere per lavorare in questo ambito? L'abbiamo chiesto a Davide Malaguti, fondatore della Golden Group. Sono persone che laureate in giurisprudenza e si specializzano con delle scuole di specializzazione come c'è la Spisa a Bologna, come ci sono altre scuole di specializzazione o corsi di specializzazione, e dove queste persone acquisiscono una metodologia per fare in modo che questi progetti non solo vengano presentati ma vengano anche approvati. Barbara Thieri invece ha un'idea più pratica di formazione. È un lavoro molto pratico ma in realtà anche molto creativo allo stesso tempo, perché l'idea ti deve venire comunque geniale, innovativo. È un lavoro fatto di relazioni, quindi devi avere certe caratteristiche, devi saper bilanciare tutti gli aspetti col partenariato. È un lavoro che secondo me, ecco, richiede più aspetti, più caratteristiche, cioè non solo competenze tecniche ma anche competenze di un certo tipo, diverse. Fondamentale nel nostro lavoro è l'idea. Cioè l'idea deve essere innovativa e vincente, altrimenti l'Europa non la finanzia. Lavorare per i progetti europei è un'esperienza magnifica, ti riempie, perché confrontarsi con altre mentalità, altre culture, aprirsi con loro, ragionare con loro, per me è un'esperienza incredibile. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ora invece riferiamoci alla giornata importante di domani, il 25 aprile, anche se l'avete commentata in modi molto diversi con i vostri messaggi, però si celebra il 70° anniversario della liberazione, il Presidente del Consiglio Renzi sarà all'altare della patria domani mattina alle 9.30, ma la memoria di questi momenti fondanti della nostra storia politica, sociale, civile è alimentata ancor più che dai libri di storia, certamente dalle persone in carne e ossa, donne e uomini che hanno vissuto quelle esperienze sulla sulla propria pelle con immane coraggio. E quindi adesso vi voglio presentare un'ex staffetta partigiana. Le staffette erano per lo più donne giovanissime, ragazze, per destare meno sospetti, che mantenevano i collegamenti tra le brigate e i centri direttivi, centri operativi, facevano anche a volte il ruolo, svolgevano di infermiere, perché collegavano i medici, tenevano i contatti tra il medico, il farmacista e i soldati feriti, facevano chilometri in bicicletta, a piedi, sui carri bestiame, sui camion, insomma con tantissimo coraggio, e tante anche sono morte. E allora voglio salutare Teresa Vergalli, che era appunto un'ex staffetta. Buonasera Teresa. Buonasera. Teresa, se lei dovesse dire oggi, spiegare ai giovani, a chi magari dice ma per me è indifferente il 25 aprile, che cosa con quale pensiero potrebbe coinvolgerli e fargli pensare che è ancora importante ricordare il 25 aprile? È il lavoro che faccio sempre da diversi anni, quello di parlare con i ragazzi, sia nelle scuole che in certe realtà. Per esempio, ieri sera ero in provincia di Reggio Emilia e c'era un teatro strapieno, e i ragazzi, una dozzina di ragazzi, avevano preparato le domande, avevano studiato gli argomenti, e ancora a mezzanotte non se ne andavano per questo grande interesse per questa parte di storia abbastanza sconosciuta. Secondo me, poi non solo, la settimana scorsa ero nelle Marche, la stessa cosa. E anche a Roma, nelle scuole. E quindi sicuramente fa opera divulgativa, Teresa, sì. Ma se dovesse dire... Ma non è per, esporre un aspetto tutto edulcorato o di parte, ma proprio vedere l'importanza storica di quel momento, che giustifica le cerimonie, che magari possono sembrare retoriche, ma che poi anche la ritualità c'ha la sua importanza. Non è che l'umanità non abbia a cuore i vari riti che sottolineano l'importanza di certi fatti, di certe persone, di certe situazioni. Quindi dipende da come gli adulti, da come la società in generale, i media, i giornali, il cinema, l'arte possono presentare questa parte storica così importante ai ragazzi, ai giovani, alle ragazze. Teresa, io credo, sì. Sì, dica. Posso solo chiederle quanti anni ha e poi ci salutiamo? Io ne ho 87, a ottobre 88 ne avevo, quindi faccio il conto, 70 in meno erano 17. Era proprio una ragazzina. Anzi, io erano ancora 17, 16 e mezzo. Teresa Vergalli, io la ringrazio per il coraggio di allora e l'energia e il coraggio anche di oggi. Grazie, continui così. Grazie Teresa. Grazie anche a voi, buon buonanotte. Lavoro. Grazie. Una mattina mi sto svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Il bello in questo momento è Paolo Corazzon. Paolo. Buonasera Roberta, buonasera a tutti, eccomi. Che tempo ci aspetta Paolo? Allora guarda, weekend che al centro-sud tutto sommato non sarà male, ampie zone di sereno, solo qualche nuvoletta di passaggio e soprattutto clima primaverile. Al nord invece un po' più variabile, ma ti dirò, fino a domenica mattina, primo pomeriggio, ben poche piogge, solo qualche acquazzone su Alpi, Prealpi, alta pianura piemontese lombarda. Invece attenzione, da domenica sera brusco peggioramento al nord e l'inizio della settimana vedrà maltempo in tutta Italia e soprattutto brusco calo anche delle temperature, quindi lunedì in qualche modo si torna un po' indietro, mettiamola così. Poveri noi, un passo avanti e un passo indietro. Grazie Paolo Corazzon, buon tempo a te comunque sia. Grazie, buon tempo a tutti. Ciao Paolo, a dopo.